You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a Radio 24, la trasmissione Indovina chi viene a cena, che apre una finestra su quello che è diverso in Italia. Nero, bianco, cosa significa? Di questo parliamo questa sera. Vi ricorderete, l'anno scorso abbiamo intervistato, ho avuto come ospite una sera una scrittrice ghanese, nigeriana, britannica, ma anche un po' italiana ormai, perché è molto conosciuta nel nostro paese per una trasmissione televisiva che ha co-condotto. Sto parlando di Taye Selassie, una scrittrice di Einaudi, che ha inventato l'espressione afropolitan. Cosa significa? Persone che sono nate dopo gli anni 60, cresciute in grandi città occidentali, africane d'origine, alle prese con una nuova complessa identità che sta ridefinendo che cosa vuol dire essere africano, africano in America in quel caso o in Inghilterra e nel nostro caso in Italia. Afropolitan insomma non è né nero né bianco, è una persona in qualche maniera trapiantata ma che non nega le sue origini. Allora, prima di presentarvi l'ospite di oggi, la vorrei introdurre con una canzone di qualche tempo fa. Senza capelli, sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, biglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca, Don Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re, non voglio più chiedere scusa, se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta. Diceva Nicolò Fabi, non voglio più chiedere scusa per i miei capelli. Stasera parliamo di phon, shampoo, balsamo, spazzola, ma soprattutto identità. Lo facciamo con una graditissima ospite. Parlo di Evelyn Afewa. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Chi è Evelyn Afewa? Allora, è una blogger italiana, è italiana ma anche africana, è nera, è cresciuta come se fosse bianca nella provincia lombarda, no? E lei a un certo punto ha detto basta con questi prodotti chimici, le piastre, i capelli, i suoi capelli afro, li ha tenuti al naturale e ne ha fatto una bandiera. È così, Evelyn? Sì, esattamente, sì. Praticamente sono nata in Francia, cresciuta in Italia, sono arrivata in Italia all'età di un anno, i miei genitori si sono quasi da subito insediati diciamo al nord, motivo per cui ho questo accento molto brianzolo, se si può... Come una si nera può, brianzola. Brianzola, esattamente. E niente, diciamo che 2-3 anni fa all'incirca io ho sempre vissuto reputandomi italiana al 100%, ma diciamo che nella vita quotidiana c'erano sempre quei piccoli episodi che un po' mi risvegliavano, mi riportavano un po' alle origini, a dove realmente arrivavo. Però non ci davo molto peso, solo che queste sono cose, soprattutto l'identità, no? Noi stessi, sono cose a cui uno prima o poi ci deve fare i conti. Cioè lei è stata cresciuta da ragazza italiana, è italiana e si sentiva bianca, però qualcuno le ha fatto notare che insomma non era bianca, è così? Esattamente, sì, esattamente. Ma non l'ho neanche presa, perché effettivamente magari la prendevo anche un po' male, ma ad oggi dico, avevano anche ragione, forse ero io che stavo perdendo un pezzo di me. E poi a 11 anni è andata in Ghana. Sì. E come si è sentita? Bianca? Ero una bianca tra i neri. Cioè, geograficamente, socialmente non hai un posto, non hai un collocamento, tu sei sempre quella diversa. Non so, penso, anzi ho scoperto che tanti ragazzi vivono questa stessa mia, cioè, non so neanche come definirla, un po' questo destra e sinistra. Lei si sente afropolitan? Sì, sì, al 100%, penso che sia l'unica definizione che non elimina niente ma include tutto. Quindi di una grande città, insomma, lei è in Lombardia, è cresciuta qui, è italiana, però insomma si sente anche afro e lo fa vedere coi suoi capelli. Da qui nasce il suo blog. Da qui nasce la mia pagina Facebook, il blog e tutto quanto. Sì. Che si chiama? Allora, la pagina Facebook si chiama Afro Italian Nappy Girls. Mentre invece il blog Nappy Italia. Allora, Nappy significa natural and happy, no? È una formula studiata, creata, inventata negli Stati Uniti che sta a significare ragazze che si sentono felicemente happy, naturali, con i loro capelli afro, folte capigliature afro, no? Che di solito vengono un pochino nei nostri contesti occidentali mortificate dai prodotti chimici, dalle piastre. E sembra un argomento scioccherello, no? Stiamo parlando alla fine di capelli, però come diceva Nicolò Fabi, perché nascondersi? Sì, diciamo che i capelli sono un po' il mezzo che ho voluto utilizzare per lanciare un messaggio, che è quello di accettarsi per quello che si è. Se sono nata nera con i capelli ricci, riccissimi afro, un motivo ci sarà. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Quello che magari forse non c'è in Italia o manca in Italia è proprio l'esempio. Le persone come me, gli afropolita, gli afroitaliani, come adesso sta nascendo anche questo nuovo termine, ci sono, ma sono visti poco, no? Socialmente, non so, in televisione, in determinati contesti. Quindi l'esempio c'è poco. E nasce dall'idea di non rifiutare le proprie origini, no? Che lei inizialmente in effetti aveva un po' rifiutato. Sì, sì, sì, sì, extension, stirature. Poi coi capelli ho sempre giocato molto. Lasciarsi liberi di essere così come si è anche un manifesto tutto sommato politico di identità. È una cosa che per lei vale anche per i sapori, per la cucina. Noi di solito ai nostri ospiti iniziando chiediamo sempre che cosa ci hanno portato, perché è un invito a cena chiaramente. Lei ha riscoperto quello che sono i gusti delle sue origini, o le sue origini sono più legate a una cucina robusta lombarda? Ma io onestamente direi tutte e due, perché ho deciso di non eliminare niente e di non mettere niente al primo posto piuttosto che al secondo. Quindi e quindi? Ne ho due. Sì. Allora, per un piatto italiano direi la lasagna, perché l'adoro. Mia mamma italiana la fa benissimo. E invece per la cucina ghanese il fufu, che è un classico ed è veramente squisito, buono altrettanto. Praticamente è una polenta di manioca che viene poi mangiata assieme a una zuppa che si può fare sia col pesce che con la carne, molto piccante, diciamo, molto piccante. Quindi insomma un piatto ghanese tipico e un piatto italiano super tipico. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear. Siamo questa sera con una ragazza milanese, Evelyn Afewa, una ragazza nera di origini africane, un afropolitan come lei stessa si definisce, una blogger che porta avanti insomma anche in Italia e questa felicità naturale, il Nappy Girls Power, è una cosa che tra l'altro negli Stati Uniti si è intrecciata alle lotte per i diritti civili fino alle rivendicazioni anche più aggressive del movimento afroamericano. Una delle immagini più celebri che restano nell'autobiografia di Malcolm X, ad esempio, l'umiliazione della stiratura dei capelli con la cute in fiamme per la soda caustica e un effetto finale rossiccio. Com'ero ridicolo, diceva Malcolm X. Ma sentiamo proprio la sua voce. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin? Allora lo state ascoltando in questo famosissimo discorso in cui lui dice: chi vi ha insegnato a odiare il colore della vostra pelle e anche i vostri capelli, la forma del vostro naso? Evelyn, lei è troppo giovane per ricordare questo discorso, però in effetti d'accordo, shampoo, un phon, stiamo parlando di capelli soltanto, ma non soltanto di capelli. Esattamente, ma diciamo che un po' di ricerche storiche le sto facendo anch'io proprio sul tema, perché ormai sono immersa a 360 gradi in questa cosa e voglio sapere perché si è passati a questo voler stirare i capelli e sto scoprendo molte cose. Sentiamo un altro contributo audio che ci aiuta a discuterne passando ai tempi nostri però. Michelle Obama's tousled bob hits just the right note of elegance and femininity. Here's how you can do it. Step one. Insomma, in rete riuscite a trovare su YouTube molto facilmente delle lezioni per avere dei capelli come quelli di Michelle Obama, la First Lady americana. Sono lezioni tutorial per le ragazze di origine africana, chiaramente americane, che vogliono acconciarsi come Michelle Obama. Michelle Obama ha i capelli stirati. Sentiamo quest'altro contributo audio. Okay. She fits all the definitions of mainstream black respectability. You have to straighten your hair, and even the kids now have to straighten their hair. And I wonder, are they doing it with a relaxer or with heat? And I just, you know, I worry about how uncomfortable it must be for the poor kids. But I think for me, really, it was just a larger question of, if Michelle Obama had natural hair, Barack Obama would not have won. Questa è una scrittrice che è nata in Nigeria, si chiama Chimamanda Ngozi Adichie, è stata pubblicata anche da Einaudi in Italia, l'ultimo suo libro è Americana, con l'H finale, il terzo romanzo, e lei dice in questa intervista che ha rilasciato a Copenaghen, se Michelle Obama avesse avuto i capelli naturali, Barack Obama non avrebbe vinto. È affermazione, diciamo, molto, molto forte, che fa riflettere, fa pensare. Se si legge i libri di storia, posso darle ragione. In effetti la tesi che sottende è l'idea che dà Michelle Obama con questa capigliatura liscia, addirittura a un certo punto aveva avuto la frangetta liscia, no? Questi vestiti anni 50 molto americani, questo atteggiamento così rispettabile non è per niente afro, anche se Obama e la famiglia Obama è la prima famiglia afroamericana chiaramente al potere, veramente al potere. Però quello che sostiene questa scrittrice è che in realtà è una famiglia afroamericana per modo di dire. Se fosse totalmente afro con i suoi bei capelli naturali, probabilmente appunto Obama non avrebbe vinto. È chiaramente una provocazione, però è interessante perché porta avanti un po' quello che lei dice, Evelyn, cioè che molto interessante. In qualche maniera dall'alto inciderebbero di più. Sì, c'è un manifesto politico anche nei capelli, soprattutto non solo nei capelli, anche ovviamente nella pelle. Sappiamo ad esempio dell'imbiancamento che fanno alcune ragazze di colore, no? Sì. Sì, usano praticamente delle creme chimiche per appunto sbiancare la pelle o farla risultare più chiara, anche se poi i risultati non sono quelli che si pensa di riuscire a ottenere. Sono prodotti altamente cancerogeni, io vorrei ricordare questo, che è molto importante, molte ragazze non lo sanno, per inseguire degli stereotipi che purtroppo sono stati tramandati di generazione in generazione fino ad arrivare ai giorni nostri, anche perché queste ragazze, se tu le chiedi a loro, come è stato chiesto a me, ma perché ti stiravi i capelli, non hai una risposta, tu sai che è giusto così. Sicuramente però sono prodotti che non fanno bene, come non fanno bene i prodotti chimici che si mettono sui capelli, no? Esattamente, soprattutto per i nostri capelli, perché hanno già, diciamo, l'ambiente climatico non è favorevole al capello afro, perché avendo origini africane il clima a cui i nostri capelli sono stati adattati è il clima molto caldo, quindi già d'inverno. Per esempio adesso ho un protective style, ovvero delle treccine che servono appunto a proteggere i capelli agli sbalzi di temperatura, al vento, alla pioggia, che d'inverno sono molto molto pesanti per i nostri capelli, cioè si spezzano in maniera molto più facile. Quindi se già l'ambiente climatico non è favorevole, se aggiungiamo anche la componente di shampoo, balsamo e quant'altro, la situazione precipita in maniera molto drastica. Chissà se un giorno Michelle Obama, pensavo, apparisse in pubblico con la sua bella capigliatura afro, no? Che shock per il resto del mondo. Sarebbe veramente un bel gesto, una bella presa di posizione che invoglierebbe. Forse il mondo non è pronto per tutto questo. Direi proprio di no, non è pronto, ma noi ci facciamo sentire comunque. Evelyn, io ho letto dei commenti nel suo blog molto così di apprezzamento, però anche su altri articoli c'erano dei commenti un po' stizziti anche, no? Di persone sì. Che dicevano, ma insomma, o se vuole essere italiana, sia italiana, se vuole essere africana, che sia africana. Come se questa rivendicazione dell'essere se stessi anche in Italia, anche con sfumature diverse, fosse un modo così per non accettare totalmente la propria identità di italiana. Ma onestamente... Li avrà letti anche lei, no? Sì, no, ne ho letti tantissimi. Onestamente a queste persone rispondo che lo sbaglio è proprio lì. Lo sbaglio sta nel voler per forza classificare, etichettare delle persone per l'essere per forza italiana o per essere per forza africana, quando io invece lo sono tutte e due. Sono tutte e due queste cose. Non posso... Nel definirmi africana sarebbe escludere tutti i miei anni vissuti in Italia, e quindi è come se mi strappassi una parte di me. Costretta a scegliere, perché se dovessi scegliere per la società in cui vivo, forse come ho fatto fino ai 19 anni, 20 anni, mi reputavo italiana, perché nella società era più facile. E chi l'ha fatta sentire diversa? A piccoli step, una relazione magari con un ragazzo italiano dove la famiglia aveva qualche dubbio, l'università, con gli amici per esempio, non so, si esce, si va a Milano, si va nei locali, non so, ci sono dei controlli che la polizia fa giustamente, e lì viene chiesto chi non è italiano, e lì io, non avendo la cittadinanza italiana, costretta a mostrare il documento, e quello ti ricorda, è il campanellino che ti ricorda, sì, sei uguale ai tuoi amici, perché li conosci da quando hai un anno ad oggi, però non sei come loro a tutti gli effetti. Quindi sono piccole cose che tutti i giorni un po' risvegliano, no? Quella parte dormiente dentro di te, no? E poi a un certo punto dici, ma se io mi rivelo anche per l'altra parte, perché fa parte di me, alla mattina quando mi guardo allo specchio, io il naso a patata ce l'ho, la pelle nera ce l'ho, quindi che c'è di male se mostro anche quell'altra parte? Perché la società non la vuole accettare, è un po' una scusa, l'accettazione deve incominciare da noi, per far sì che anche all'esterno, nella società, si possa accettare. The bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like qualche modo essere un esempio, definiamolo così, o incoraggiare altri a venire fuori, a mostrare a quest'Italia che sono, c'è una nuova generazione che sta nascendo, perché dagli anni 80, 70 che i nostri genitori sono arrivati, noi siamo il loro seguito, ma siamo diversi, siamo la diversità dell'Italia che dovrebbe secondo me apprezzare e esporre, vedere il valore aggiunto che possiamo apportare alla società. Tornando su temi più leggeri, lei prima ci raccontava appunto di cosa fare con i capelli afro per mantenerli bene nel nostro clima. Ho notato che anche le case di cosmetici stanno un po' approcciando questo segmento anche di consumatori, no? Di persone con la pelle nera, che magari ragazze che si vogliono truccare hanno bisogno di cosmetici specifici. Ecco, che cosa fare per tutte le ragazze nere italiane in ascolto per i capelli afro per mantenerli belli? Cosa molto importante di cui i nostri capelli hanno bisogno è di molta idratazione. I nostri capelli sono un po' come delle piantine, hanno bisogno costantemente di acqua, non tutte le piante, però diciamo hanno bisogno di acqua, oli naturali possibilmente, burri, e burri come il burro di karité, quello puro, non quello che si vende diciamo sugli scaffali dei supermercati, perché molto spesso e volentieri hanno dentro il profumo, l'alcol, che sono componenti che seccano i nostri capelli. Stare attenti molto ai prodotti come lo shampoo, il balsamo, le maschere idratanti già prefabbricate, controllare sempre che non abbiano al loro interno siliconi, parabeni, solfati, il petroleum, perché sono tutte diverse componenti chimiche che nuociono al capello. Il silicone, per esempio, crea una pattina intorno al capello che nel breve periodo gli dà un aspetto sano, nel lungo periodo invece poi inizia a perdere di lucentezza e quant'altro. Zuppa ghanese alle arachidi e fufu. Ingredienti per la zuppa: un cucchiaio di olio di girasole, una cipolla tritata, due carote a dadini, 500 g di pomodori pelati, mezzo cucchiaino di condimento piripiri o di scaglie di peperoncino schiacciate, 100 g di arachidi salate arrostite, un litro di brodo di pesce o vegetale. Per il fufu, 250 g di farina di banane, 150 g di farina di maioca, 100 ml di brodo di pollo, 300 ml d'acqua. Scaldate l'olio in una casseruola, unite la cipolla e le carote e friggete per 5 minuti, mescolando finché non diventano morbide e leggermente dorate lungo i bordi. Aggiungete mescolando pomodori e piripiri o il peperoncino e cuocete per un minuto. Tritate le arachidi in un macinino per spezie o in un frullatore. Aggiungete mescolando ai pomodori, unite il brodo, poi portate a ebollizione. Coprite e fate sobbollire per 30 minuti. Schiacciate o riducete in purea metà della zuppa e scaldate di nuovo. Assaggiate e regolate il condimento se necessario. Poi scodellate in ciotole, guarnite con scaglie di peperoncino schiacciate e arachidi e servite con fufu. Per il fufu, in una pentola mescolate tutti gli ingredienti per amalgamare bene prima di mettere il composto sul fuoco. Mettete la pentola sul fuoco medio-alto e continuate a mescolare. Fate cuocere per circa 15 minuti, continuando a mescolare fino a quando il contenuto diventa più consistente. Aggiungere un poco d'acqua se necessario per ottenere la consistenza desiderata. Coprire la pentola e lasciare cuocere per circa 2 minuti. Grazie a Evelyn Afewa, grazie, che ha creato questo manifesto che sembra parlare di phon, spazzole, shampoo e balsamo, ma in realtà è un manifesto anche di identità politica in senso più ampio, no? Di identità delle persone. Grazie per essere stata con noi questa sera. Grazie mille a voi, buona serata. Buona serata anche a tutti voi che siete stati questa sera in ascolto. In regia io ringrazio Peter Bescapè. Vi ricordo che l'appuntamento è, come sempre, per sabato prossimo con altre storie dell'Italia che sta cambiando anche grazie alla presenza degli stranieri, con altre ricette che provengono dalle parti più diverse del mondo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.